invece andiamo in quel di Formigine, in provincia di Modena. Vicino alla Ferrari. Vicino alla Ferrari, perché abbiamo in collegamento Elena Lancellotti, buongiorno. Buongiorno. Amministratore delegato della Tellure Rota, detto ecco. Bene? Sì. Buongiorno dottoressa Lancellotti, ora la novità, buongiorno. Ora la novità è appunto incredibile ma vero, la ruota è un prodotto high tech, ad alta tecnologia. Sembra incredibile, ma è proprio così. Noi che produciamo a Formigine continuiamo a investire sul prodotto più antico del mondo. Che voi fate ruote, c'è sempre ancora tanta innovazione da fare. Ahimè, non siamo mai i primi, quindi c'è sempre da correre ancora di più, insomma. Allora, la sua storia è particolare perché voi non fate un tipo di ruote, ne fate moltissimi tipi di ruote, li fate on demand, sì. Li fate anche, li comunicate con un blog. Insomma, sentiamo nella scheda tutto quello che fate. Ruote gommate iniettate, ruote elastiche, ruote in poliuretano, ruote monolitiche. Già, si fa presto a dire ruota. Invece c'è ruota e ruota. È la macchina più vecchia del mondo, ma anche una delle più sofisticate, assicura Elena Lancellotti, 54 anni, laurea in economia, amministratore delegato della Tellure Rota di Formigine, in provincia di Modena, a due passi da Maranello. Elena Lancellotti se ne intende, perché da 6 anni guida l'azienda fondata 60 anni fa dal padre, Roberto. Il primo a capire che l'innovazione poteva essere la chiave vincente anche in un settore, come appunto quello delle ruote, apparentemente ultramaturo. Risultato? La Tellure Rota oggi ha 150 dipendenti e una ventina di milioni di fatturato, il 60% dei quali realizzati sui mercati internazionali, e produce ogni giorno 40.000 ruote di ogni genere, capaci di reggere un peso da 300 a 3.500 kg e destinate a qualsiasi applicazione industriale e domestica. Se in casa avete un carrello portaoggetti, è probabile che le sue rotelle siano made in Formigine.